sleale, aspergiura, donna ingrata, infedel, cor traditore. Del tuo malnato ardore vengo a smorzar. O ciel, che leggo? Ai lasso. Vivan sempre amorosi, angelica e medoro amanti e sposi. Angelica e medoro amanti e sposi. Questa è la scure, ahimè, che il capo tronca alla mia speme. Dimmi d'oro il mio bene. Scorgate lagrime a fonti arrivi. No, che poco, a torrenti, a fiumi, a mari, arde urlando, che urlando, e urlando è morto. La sua donna ingratissima l'ha ucciso. Io son lo spirito suo da lui diviso, e son con l'ombra mia che sola avanza, esempio a chi in amor pone speranza. Angelica qui fu sposa a Medoro, chi segnò questo alloro? Lo vergò di sua man la mia tiranna, v'impresse di sua mano il mio martoro. Amanti e sposi, o dei, sposa Medoro. Vendetta, sì, vendetta incontro amore. Or n'ho trovato il modo per cacciarmi dal sen, trarrammi il core.